Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un saluto alle persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che ogni settimana tratta le notizie di attualità, oltre che temi culturali, filosofici, scientifici, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 686 e parleremo di ippopotami e allarmi globali, di emissioni climalteranti e film di successo, di orsi perseguitati. La colonna sonora è curata per la prima volta da Gaia, amica di Restiamo Animali. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il sesto rapporto dell'IPCC, l'organizzazione internazionale che fa capo all'ONU e riunisce studiosi di tutto il mondo specializzati nell'analisi del cambiamento climatico. Il rapporto 2023 è l'ultimo previsto per il decennio e può essere considerato un ultimatum ai decisori politici, oppure, secondo i punti di vista, l'ultimo disperato grido di allarme e di dolore di scienziati coscienti d'essere inascoltati. A giudicare da come il rapporto è stato accolto dal sistema mediatico e dalle élite politiche ed economiche, la seconda ipotesi sembra la più plausibile. In Italia il contenuto del rapporto è stato pubblicato da tutti i giornali, ma come una notizia fra le altre, e nessuno ha pensato di farne il perno della propria interpretazione del presente. La classe politica, si può dire senza eccezioni, ha ignorato il rapporto e tutto sta continuando come prima. E dire che gli scienziati hanno usato parole chiarissime. Prendiamo la sintesi fatta dall'unico quotidiano italiano che ha messo la notizia in prima pagina, cioè Domani. Scrive Ferdinando Cotugno. Questo documento di una quarantina di pagine può essere considerato l'ultimo avviso della comunità scientifica. Contenere il riscaldamento globale entro parametri ragionevoli, cioè più 1,5 gradi di aumento della temperatura, è ancora possibile, ma servono tagli profondi e immediati alle emissioni di gas serra. Da oggi e per i prossimi 7 anni che ci separano dal nuovo ciclo, la partita sarà solo politica. Il 79% di questa crisi deriva dalle emissioni legate ai combustibili fossili, carbone, petrolio e gas usati per elettricità, trasporti, riscaldamento degli edifici e produzione industriale. La sintesi è stata pubblicata mentre in Italia arriva un nuovo rigassificatore. Negli Stati Uniti era stato approvato un nuovo immenso giacimento di petrolio in Alaska e in Cina sono in fase di autorizzazione 168 nuove centrali a carbone. La temperatura è aumentata più negli ultimi 50 anni che nei precedenti 2000. La concentrazione di CO2 in atmosfera non era così alta da 2 milioni di anni, quella di metano da 800.000 anni. L'aumento globale di temperatura è già più 1,1 gradi centigradi. La soglia di sicurezza 1,5 potrebbe essere superata per la prima volta già nel prossimo decennio. Da lì saremo in territorio non mappato, dove i singoli collassi, permafrost, artico, circolazione atmosferica sull'Atlantico, barriera corallina, criosfera, rischiano di potenziarsi a vicenda. Con gli impegni attuali stiamo viaggiando verso un aumento di più 2,8 gradi entro fine secolo. Con le policy attuate, oggi siamo addirittura a più 3,2. Insomma, non bastano più né le azioni né le promesse già fatte, serve di più. Se pensiamo a qual è l'agenda politica del nostro governo, ma anche dell'Unione Europea e dei grandi paesi inquinatori, come gli Stati Uniti e la Cina, e se pensiamo che la guerra in Ucraina promette di continuare a lungo, in un'escalation che potrebbe anche portare alla catastrofe, e intanto sta drenando enormi risorse finanziarie, ecco che in realtà la scelta sembra già compiuta. Gli obiettivi degli scienziati, il loro grido d'allarme, non sono condivisi dalle élite politiche, economiche e, possiamo dire, anche mediatiche dell'Occidente e dei paesi più forti sulla scena globale. Il riscaldamento globale quindi avanzerà, salvo parziali e assai diseguali interventi di mitigazione per proteggere determinate fasce di popolazione. A meno che, e forse questa è l'unica speranza che rimane, le attuali classi dirigenti non siano sostituite da altre persone, più consapevoli della fase storica che stiamo vivendo, più proiettate verso il futuro, più disposte a pensare il mondo in termini di cooperazione anziché di competizione e di politica di potenza. I conservatori diranno che questa è un'utopia. I progressisti, malati di moderazione, diranno che bisogna procedere per gradi e accontentarsi, ascoltandosi gli scienziati, ma senza dare seguito concreto al loro allarme. Ma si tratta in realtà di realismo. Cambiare tutto per salvare il futuro e garantire una vita decente anche alle generazioni presenti. Shadow settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. La strada scelta dalle attuali elite globali è la correzione delle politiche correnti nella direzione del cosiddetto sviluppo sostenibile, nozione magica, proposta come soluzione, ma più probabilmente parte del problema, visto che è vissuta come una semplice evoluzione del concetto di sviluppo che ereditiamo dal secolo passato e che resta interna all'ideologia della crescita. Fra i tanti provvedimenti in ballo, a livello europeo esiste un piano di riduzione delle emissioni, che coinvolge anche gli allevamenti, un'industria di morte e anche altamente inquinante, oltre che divoratrice di risorse scarse o finite, come l'acqua e il suolo. Ce ne parla Francesco Panier. Nonostante il voto contrario dell'Italia, che come sempre si distingue in Europa, ultimamente i ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno deciso di includere gli allevamenti intensivi di bovini nel campo di applicazione della direttiva europea sulle emissioni industriali, escludendo al contempo però gli allevamenti estensivi, quelli con meno animali per ettaro di superficie. Per la prima volta, in sostanza, i ministri dell'ambiente hanno infatti preso in considerazione non solo il numero di animali allevati, ma anche la loro densità, per distinguere le attività zootecniche intensive da equiparare agli impianti industriali già coperti dalla norma da quelle che invece ne rimangono fuori. L'accordo ora dovrà passare per il Parlamento europeo e si prevede che accadrà entro maggio-giugno, ma se resterà in questi termini, secondo Greenpeace, non cambierà quasi nulla rispetto alla situazione attuale, in cui più della metà delle emissioni di metano di origine antropica in Europa viene dal settore zootecnico. Non cambierà nulla perché, come si suol dire, fatta la legge, trovato l'inganno. I criteri per classificare un allevamento come intensivo sono i seguenti. Dovrà avere più di 350 unità di bestiame adulto, 280 per gli avicoli, e questi animali devono essere in una densità superiore a 2 unità per ettaro. Queste unità di misura, che trattano le vite un tanto al chilo, valutano una unità di bestiame adulto come equivalente a 1,4 mucche, 4,3 maiali o 48 polli. Ciò significa che, se non cambia niente rispetto alla proposta valutata recentemente dai ministri dell'ambiente europei, la direttiva sulle emissioni industriali comprenderà solo allevamenti con oltre 490 mucche da latte, oltre 1500 maiali oppure oltre 13.500 polli. Anche quelli che saranno inclusi, comunque, potrebbero farla franca rispetto alle prime proposte di questa direttiva, che erano un po' più stringenti. Potrebbero farla franca evitando di vedere aumentare la burocrazia e quindi di conseguenza averne un impatto sul business tale da doverlo rimpicciolire. Infatti, sempre secondo Greenpeace, questa direttiva, per come è scritta al momento, non farebbe altro che censire e raccomandare delle migliori pratiche agli emettitori di emissioni industriali. Perciò non occorrerebbe più quello che prima avrebbe rappresentato una sorta di freno all'attività, cioè un'autorizzazione speciale, un aggravio burocratico per condurre allevamenti intensivi di grande dimensione. Forse però, e qui concludiamo, dopo tanti anni passati a cercare di equiparare le forme viventi diverse da noi a fonti di gas serra, sarebbe tempo di riflettere e capire se tutto questo non ci abbia un po' invece soltanto allontanato dall'obiettivo ecologico e dal proposito etico di offrire un altro destino agli animali. Aver cercato di parlare la lingua di chi li vuole schiavi, di chi li rende schiavi tutti i giorni, forse ci ha un po' allontanati da quello che invece era un obiettivo pure nobile. Partendo da questa riflessione, sarebbe interessante attivare un confronto tra i movimenti ecologisti e i movimenti antispecisti per arrivare magari a nuove forme di campagna e di protesta per cambiare lo stato delle cose. Have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. Torniamo a parlare degli orsi perché in Trentino, come avevamo facilmente previsto, è arrivata un'estemporanea condanna a morte per uno di loro, in nome di un malinteso concetto di sicurezza. Ce ne parla il nostro corrispondente dall'arco alpino, Zenone Sovilla. Pochissimi episodi seri in 20 anni, ma la scena ogni volta è la stessa, specialmente da quando al governo del Trentino c'è la destra a guida leghista. La risposta è di tipo, diciamo, securitario e allarmistico, del tutto irrazionale e inutile. È accaduto anche dopo il caso di poche settimane fa, un incontro ravvicinato tra un escursionista con il cane e un orso nel bosco. È scattato qualcosa per cui l'orso è stato aggressivo per mandare via i due ospiti non graditi. L'uomo è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave, ma ha passato qualche giorno in ospedale. Immediata è arrivata la condanna a morte dell'orso da parte del presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Una condanna arrivata prima ancora che si conoscessero i dettagli del fatto e l'identità dell'orso implicato. Si saprà infatti qualche giorno dopo che si trattava di MJ5, che è un maschio di ben 18 anni, un orso che finora non si era mai fatto nemmeno notare, nessun problema. Basterebbe forse questo per indurre alla prudenza e a un approfondimento, per capire che cosa sia andato storto quel giorno nel bosco, se un orso che per 18 anni è stato invisibile e ha reagito in quel modo deve essere una situazione particolare. In altri casi era stata la presenza di un cane non al guinzaglio a provocare atteggiamenti difensivi violenti da parte di orsi, anzi per lo più da parte di mamme orse con cuccioli. In ogni caso sarebbe bastato che la provincia, anziché sollevare l'ennesimo polverone, si fosse affidata agli esperti per analizzare profondamente l'episodio e quindi spiegarlo all'opinione pubblica. Un'opinione pubblica ancora troppo spesso priva di strumenti, di informazioni utili a favorire la convivenza con gli orsi e anche a minimizzare i rischi di incontri ravvicinati. Incontri ravvicinati con aggressione che peraltro in Trentino sono stati 5 o 6 in 20 anni e oggi qui ci sono oltre 100 orsi, fra l'altro concentrati in un'unica area nella zona del Brenta e dintorni. La casistica insomma è davvero minima e non giustifica la reazione della provincia, anche perché altrimenti in proporzione dovrebbe esserci un allarme pressoché continuo su altri e ben più frequenti episodi con danni per gli esseri umani e con protagonisti anche animali, bovini, cani, zecche o insetti vari. Invece nulla di tutto ciò. Solo lupi e orsi meritano, secondo la provincia di Trento, la condanna a morte se vengono classificati come problematici. È evidente che dietro queste scelte politiche c'è soprattutto la voglia di semplificare e di parlare a un certo elettorato di riferimento, al mondo rurale e a quello dell'allevamento. Un mondo che trova scomodo organizzare gli strumenti difensivi e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione forniti per appunto ridurre i rischi di predazioni da parte di animali selvatici, dispositivi come le reti elettrificate oppure i semplici ricoveri notturni ben noti una volta nella storia appunto dell'allevamento. E le predazioni, favorite appunto da una prevenzione manchevole, sono il vero terreno utilizzato anche appunto da una certa politica per chiedere mano libera, come nel caso del Trentino, nella gestione ed eventuale soppressione di orsi e anche di lupi. Cioè quando si decide che diventano un problema, cioè vengono classificati come problematici. Le associazioni animaliste chiedono da anni alla provincia di Trento di strutturare una gestione diversa, con maggiore coinvolgimento e maggiore informazione per la cittadinanza locale e anche per i turisti. Si chiede di informare di più sul comportamento da tenere per evitare situazioni difficili, si chiede che sia migliorato il monitoraggio degli orsi, solo una parte dei quali sono muniti oggi di radiocollare. Si osserva che una più puntuale mappa in tempo reale consentirebbe di avvisare le popolazioni qualora un esemplare si avvicinasse per esempio a zone abitate o ad aree escursionistiche frequentate, aree che potrebbero in quest'ultimo caso temporaneamente essere anche inibite agli escursionisti per motivi appunto di prevenzione. E a proposito dei centri abitati, spesso a far avvicinare gli orsi è la facilità con cui trovano cibo lasciato in giro. Anche questo è un fronte su cui si può fare di più. Il tutto certo considerando che la gestione di orsi e lupi non è sempre semplice, ma evitandoci almeno di utilizzarla nel mercato del consenso elettorale, assecondando le scorciatoie che producono solo nuovi squilibri naturali. E per tornare al nostro orso MJ5, condannato a morte dalla provincia di Trento, secondo vari esperti catturarlo comunque non sarà facile e nel frattempo qualcuno, anche nel confronto istituzionale con il Trentino, potrebbe far ragionare la giunta leghista. Certo, non sarà facile far ammettere di aver esagerato condannando un orso di 18 anni finora sempre pacifico, ma vedremo e probabilmente la questione, come in altri casi, finirà davanti ai giudici. Terra tedesca, arrivò dalle montagne, dissero cerca carne fresca, mangiò 31 pecore, rovesciò 3 alveari, passò un pranzo in naturali per degli orsi solitari. Bruna fame, dopo il lungo letargo, si avvicina alle casse di notte, ma di giorno resta a largo, ricorda della mamma, del suo avvertimento, l'uomo può essere buono, ma anche molto crudele e violento, e lui è un orso in gamba, fiuta nell'erba, nei sassi gli odori, fa il bagno nei torrenti, sfianca e semina gli inseguitori. Bruno ha tatto, ha olfatto, alcuni iniziano a dire, oh, ma quello è un orso matto. Siamo tutti tuoi fan. Rambo, rambo, rambo, rambo, rambo. che un mostro. Evita tutte le trappole, si nasconde nel fitto del bosco. Nemmeno se tutte le vipere si fossero moltiplicate per 100, l'allarme diventa più alto, ti ci dono l'abbattimento. Corri Bruno, corri, è l'uomo che fa i danni. Non si vedeva più un orso in quei monti da 170 anni. I ragazzi invasero il bosco per andarlo a salvare. Ma sono troppi gli stupidi, nessun altro animale. Due cacciatori lo beccano là, senza esitazione, lo uccisero con due proiettili in corpo, al fegato, al polmone. E questo tuo rap Bruno, sei volato su una stella, non ti prenderà più nessuno sulla montagna più alta e più bella. Ci indichi la libertà di cui l'ordine ha tanto paura, ti ha balsamato in un museo chiamato l'uomo e la natura. E ancora nelle sale il film di Martin McDonagh Gli spiriti dell'isola. Ambientato in una piccola isola al largo della costa irlandese nei primi anni del Novecento, è un film duro che racconta la difficile evoluzione di un rapporto di amicizia fra due uomini. La storia è disturbante e induce riflessioni legate anche alla presenza e al ruolo di alcuni animali. Perciò abbiamo chiesto al nostro filmologo di fiducia Emilio Maggio, autore con Massimo Filippi del libro Penne e pellicole, gli animali, la letteratura e il cinema, edito da Mimesis, di commentare per noi il film. A vedere Gli spiriti dell'isola, il nuovo film di Martin McDonagh, senza sapere bene cosa aspettarmi, vista la disinvoltura con cui il regista inglese di origini irlandesi è in grado di passare con acume e intelligenza da un genere all'altro. Quello che mi ha piacevolmente colpito in questo film è il modo in cui McDonagh è riuscito a toccare le corde della sensibilità dello spettatore, superando il sincero umanesimo che aveva caratterizzato le precedenti pellicole, fra le quali meritano una menzione soprattutto Il cult in Bruges e l'altrettanto ispirato Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Dico questo perché la critica specializzata non ha prestato particolare attenzione a quel versante animale, tanto per citare il filosofo francese Jean-Christophe Bailly, che invece per me formalizza il vero senso del film. L'animalità, infatti, seppur trasfigurata nella dimensione della domesticità e della redditività, coerentemente a quanto la storia richiede, le vicende ruotano intorno a una minuscola comunità isolana irlandese nel maggio del 1923, mentre ancora echeggiano sulle sue splendide coste gli ultimi fuochi della guerra civile, costituisce infatti il controcanto alla meschinità con cui solitamente gli umani si relazionano con i loro simili e con i loro dissimili. Gli spiriti dell'isola, il cui titolo originale The Banshees of Inisherin rimanda alle ballate tradizionali irlandesi, dipinge magistralmente le tediose giornate degli abitanti dell'immaginaria isola, scandite dal lavoro quotidiano, la pesca e il governo dei pochi animali da reddito a disposizione, e dalle pochissime distrazioni fatte di stordenti ubriacature a base di pinte di birra e whisky e improvvisate canzoni cantate a squarciagola nell'unico pub presente. In questo microcosmo si consuma la fine di un'amicizia, quella tra Patrick, interpretato da Colin Farrell, e Colm, cioè Brendan Gleeson, l'attore feticcio di McDonagh. Patrick è una persona gentile, lui stesso a definirsi tale, del tutto inoffensiva, insomma un candido, ma proprio questa sua sensibilità viene percepita dal resto della comunità come segno di ottusità, ottusità spesso attribuita proprio ad alcuni animali, come gli asini, come vedremo in seguito. Mentre Colm, violinista e compositore di musica tradizionale, stanco e annoiato al vecchio amico con cui condivideva le bevute al pub, cerca di colmare il suo vuoto interiore, che è anche il vuoto di un intero popolo sottoposto al lungo dominio britannico, con presunte vellità artistiche. La trama si riduce al racconto di questo particolare rapporto di odio e amore fra i due. Colm, sempre più intenzionato a recidere definitivamente l'amicizia col suo compagno di sbronzo, e Patrick che cerca con insistenza di ricomporlo, finché Colm decide di amputarsi un dito delle mani ogni qualvolta Patrick cerca di recuperare l'antica amicizia. La minaccia di Colm non è una boutade, e sempre rimanendo nel campo della tradizione folclorica irlandese, dove faide e fatti di sangue compongono un vero e proprio serbatoio di tropi e figure retoriche popolari a cui attingere, risoluto nel rispettare fino alle estreme conseguenze la promessa pattuita, finirà per amputarsi tutte le dita della mano sinistra. La dimensione grottesca e inquietante a questo punto prende il sopravvento, il film diventa una fiaba orrorifica in cui Colm, con il moncherino gocciolante sangue, si inerpica sulle scogliere a picco sul mare, compone e suona con una mano sola il leitmotiv della storia, The Banshees of Inisherin significa gli spiriti di Inisherin, titolo che allude a quegli spiriti delle donne che sono le uniche in grado di vedere e prevedere le sorti di un'umanità allo sbando. E, non meno terrificante, ucciderà, anche se involontariamente, l'asino di Patrick, che rimarrà soffocato da una delle dita ingurgitate. Patrick, legato profondamente al suo asino, rimane solo. In un attimo perde l'asino, il suo amico, e la sorella, che stanca della mortifera monotonia dell'isola, decide di partire per il continente. Ottenebrato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, sentimenti fino a quel punto a lui completamente estranei, Patrick dà fuoco alla casa dell'ex amico per poi rifugiarsi nel suo alloggio insieme a una mucca, un cavallo e una capra. Si instaura così una vera e propria convivenza. Patrick, spoglio ormai di ogni residuo di umanità, un'umanità che assume spesso i caratteri della guerra, in questo caso dell'assurda violenza fratricida, condivide infatti con questi animali quello che Rilke, in una delle sue elegie duinesi, chiama l'aperto, cioè un sistema di affetti che riguarda il rapporto che abbiamo con i cosiddetti animali domestici. La differenza di questi animali per le vicende umane è disarmante, disarma cioè i recinti, anche concettuali, con cui l'umano ha edificato le sue barriere contro il potere dell'affetto. Patrick è finalmente libero di dormire insieme ai suoi animali, di mangiare insieme ai suoi animali, di scambiare sguardi con i suoi animali, in grado di riconciliarlo con la vita e perfino con la morte, fino all'ultimo respiro, fino all'ultima espressione, che siano gli occhi di una mucca o l'alito sbuffante di un cavallo. La verità del film allora non è nell'allegoria della lotta fratricida fra unionisti e repubblicani, o almeno non è solo questo, ma semmai la verità è nell'oscenità prodotta dalla solitudine con cui l'umanità ha deciso di rapportarsi agli altri animali. E questa mancanza, questa latenza, frutto di una recessione storica e politica che impedisce agli umani di trovare il giusto riparo alla solitudine di un mondo creato a loro immagine e somiglianza. Riparo che, una volta raggiunto, come fa Patrick, permetterebbe di incontrare liberamente ciò che le risponde, l'animale amato. Quando Colm confessa al prete dell'isola l'omicidio dell'asino, pur essendo frutto di un incidente, questi gli replica che gli animali non interessano a Dio, al che Colm ribatte sconsolato che forse è proprio nel momento in cui l'uomo si è dimenticato dell'animalità che sono cominciati i nostri guai. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Valentina Baronti, Anna Granata, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Francesco Panier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.